in primo piano. Una breve carrellata dei titoli. A parte il Corriere che apre sull'inchiesta del G8, ci sono sviluppi, così spiavano l'inchiesta, e poi vedremo. Le aperture sono appunto su questo. Liste, altro stop alla Polverini per Repubblica. La Stampa, liste, stop anche alla Polverini. Il Giornale, fini, il PDL non mi va più. È legato comunque a questo tema. Ladri di polli e di voti, questo è un sabotaggio, dice Libero. Il Messaggero, Lazio, stop al listino Polverini. Insomma, i temi sono questi. Polverinizzati per il Riformista. La casa dei veleni per l'Unità, con una foto di Renata Polverini in primo piano. L'apertura del Sole 24 Ore, finanziaria, bene il rigore ma ora i tagli, è l'appello del presidente di Confindustria Marcegaglia, che insomma dice si sta parlando di liste, di problemi eccetera, e forse i problemi veri si stanno mettendo in secondo piano. Ma insomma, andiamo a vedere quello che è successo. Intanto manca una firma, a rischio il listino Polverini a pagina 5 del Corriere della Sera, ma anche il Messaggero a pagina 5 spiegano che cosa sta succedendo. È davvero un giallo intricato, ci saranno i ricorsi appunto già partiti, oggi già i primi pronunciamenti, staremo a vedere. Di certo c'è la ricostruzione di quello che è successo per l'Unità, sempre a pagina 5 il titolo è riassunto così: colpa d'Alfredo, perché Alfredo Milioni è quello che non fece, che non diciamo si è allontanato per il famoso panino che forse gli è costato la presentazione entro le 12 della lista del PDL. Stavolta invece che cosa manca? Mancherebbe una firma di un altro Alfredo, Alfredo Pallone, coordinatore del Popolo della Libertà nel Lazio, europarlamentare, la cui firma manca alla presentazione del listino della Polverini, e questa mancata firma, ecco, questo errore burocratico, per il momento avrebbe escluso il listino della Polverini. Andiamo in Lombardia. Timbri e documenti contestati. Formigoni presenta il ricorso. Lo leggo dal Corriere della Sera. Cosa sarebbe successo? Qui sarebbero state invalidate almeno 514 firme delle 3.935 presentate, e quindi quelle valide sono scese a 2.421, a 3.421 ne mancavano 79 per raggiungere le 3.500 previste dalla legge come minimo indispensabile. Ci sono 136 firme senza il timbro tondo ma con il timbro quadrato, si capisce bene, 121 senza data, 229 senza il luogo, 28 senza qualifica dell'autenticante. È la burocrazia, bellezza, e quindi per ora è saltato tutto. Anche qui ci sarà, ovviamente, ci sono i ricorsi. Intanto Bossi dice: dilettanti allo sbaraglio. Questo lo leggiamo a pagina 4 dal Giornale, ma in qualche modo gli replica il ministro La Russa, che in un'intervista a Repubblica, pagina 2, dice: è un campanello d'allarme. Sentite La Russa cosa dice. Senta, Umberto Bossi vi dà dei dilettanti allo sbaraglio. Si vede che i suoi, risponde La Russa, non gli hanno riferito cosa è successo venerdì sera in Lombardia dopo mezzanotte. La Lega ci aveva garantito 500 firme a sostegno del listino di Formigoni, invece si sono presentati alle 2 di notte con 300 firme, di cui solo 30 autenticate, invece che 530. Sono loro dunque i dilettanti. Io non mi offendo, racconto solo come sono andate le cose. Poi certo La Russa dice: l'errore più grave è quello, da che mondo è mondo si sa che in genere un 10% di firme vengono invalidate, bisogna raccogliere almeno il 20% di firme in più di riserva, come ho sempre fatto io in passato. Insomma, dilettanti allo sbaraglio, burocrazia, chi lo sa. Sta di fatto che il partito è un po' sotto shock. C'è Fini che dice, che ha detto in tutte le salse: io ho contribuito a fondare il PDL, sono affezionato, ma se mi chiedete se mi piace così come adesso, la risposta credo l'abbiano capita tutti, non c'è bisogno di ripeterla. Così dice Fini, e tra l'altro il Giornale titola proprio così, no? Abbiamo letto il titolo di prima pagina: Fini, il PDL non mi va più, il presidente della Camera ufficializza ciò che diciamo da tempo, il suo braccio destro Granata si dice disposto a far cadere il governo. Questo è vero, perché Granata lo ha fatto in un colloquio con lo scrittore Camilleri, un colloquio che tra l'altro viene riportato in alcuni stralci, anticipato da Il Fatto Quotidiano. Mi sono perso la pagina, ma eccola qua, pagina 5, Granata, considerato un finiano di ferro, in uno stralcio di dialogo appunto con Andrea Camilleri, riportato dal Fatto, dice: sulla giustizia siamo disposti a far cadere il governo. Insomma, che sta succedendo? Forse qualcosa si capisce se prendiamo in mano la prima pagina del Corriere della Sera, dove c'è un editoriale per il quale va fatta una doverosa premessa, perché sono più i commenti che già ci sono sugli altri giornali di questo editoriale di Ernesto Galli della Loggia dell'editoriale stesso, cioè fanno più discutere già i commenti che ci sono sugli altri giornali di questo editoriale, perché attorno a questo editoriale c'è un giallo. Un giallo perché questo editoriale inizialmente era nella edizione del Corriere della Sera di ieri. Nella prima battuta, insomma, nella prima stampa, andata consegnata anche ad alcune TV per la rassegna stampa, finita anche in alcune edicole straniere, quelle dove finiscono le prime copie stampate del Corriere della Sera, poi questo editoriale ieri è scomparso, dando vita a un giallo, tanto che prima di leggere l'editoriale, e capirete perché il giallo, leggo gli articoli che spiegano questo giallo. Su Repubblica, al Corriere, il giallo dei due editoriali. Ieri salta l'articolo di Galli della Loggia. Prendiamo il Riformista. In prima pagina, Galli della Loggia scopre la ditta, l'editoriale scompare dalla prima. Prendiamo il Foglio, il Corriere tra PDL e PDF, piccolo giallo, un duro editoriale contro il partito del Cavaliere compare e scompare dalla prima, ma finisce in rassegna in giro per il mondo. Prendiamo il Fatto, sempre in prima pagina, il titolo di prima pagina è... Rai scoppia la protesta e poi Corriere, l'articolo scomparso, il Corriere delle nebbie, l'editoriale della Loggia sul PDL di plastica sparisce ma esce all'estero. Insomma, questa è la premessa, perché ieri è comparso in alcune edizioni introvabili del Corriere questo editoriale di Ernesto Galli della Loggia, poi sparito e apparso oggi. Il direttore del Corriere Ferruccio De Bortoli, in un commento all'editoriale stesso, dice: è stato solo un errore tecnico, lo proponiamo oggi, era stato messo in pagina ieri, poi per un errore tecnico è stato sostituito, d'accordo con l'autore, lo pubblichiamo oggi. Insomma, andiamo a vedere che cosa c'è scritto in questo editoriale, perché ripeto, è più tutto un contorno di giallo, ma poi l'editoriale c'è. Oggi, il fantasma di un partito, un editoriale durissimo di Ernesto Galli della Loggia contro il PDL. La plastica si sta squagliando? Sembrerebbe. Certo è che coloro che si erano illusi dopo le elezioni del 2008 che il PDL fosse diventato un partito più o meno vero, qualcosa di più di una lista elettorale, sono costretti ora a ricredersi. Non era qualcosa di più, spesso, troppo spesso, era qualcosa di peggio. Una corte, è stato autorevolmente detto, ma quel che è dato a vedere pare piuttosto una somma di rissosi potentati locali riuniti intorno a figuranti di terz'ordine, rimasuglio delle oligarchie dei quadri dei partiti di governo della Prima Repubblica, e tra loro, mischiati alla rinfusa, gente dai dubbi precedenti, ragazze troppo avvenenti, figli e nipoti, genti d'ogni risma ma di nessuna capacità. Cioè, sentite il tono usato da Galli della Loggia nei confronti del PDL. È per l'appunto tra queste fila che a partire dalla primavera dell'anno scorso si stanno ordendo a ripetizione intrighi, organizzando giochi e delazioni, quando non vere e proprie congiure allo scopo di trovarsi pronti coi collegamenti giusti, quando sarà giunto il momento da molti dei cortigiani giudicato imminente, in cui l'Augusto sarà costretto in un modo o nell'altro a lasciare il potere. Da quel che si può capire, soprattutto si mormora, sono mesi, diciamo dalla famigerata notte di Casoria, che le maggiori insidie vengono a Berlusconi e al suo governo, non già dall'opposizione, ma proprio dalla sua stessa parte. E, insomma, Galli della Loggia usa questo editoriale durissimo, un partito di plastica che si starebbe squagliando. Questo è il clima politico quando ci si rivolge, quando ci si approccia alle elezioni. E con il monito invece in prima pagina del Sole 24 Ore, come detto, del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia: ora cambio di passo, si legge all'interno, un richiamo forte alla politica, Si parla di liste, di conflitti tra maggioranza e opposizione, magistratura, forze politiche. E cosa c'è? Disattenzione sul tema della crescita, del benessere dei lavoratori. Questo è il monito di Emma Marcegaglia. Si parla troppo di rissosità e meno di problemi concreti. Sull'inchiesta del G8 ci sono ancora una bella vagonata di intercettazioni oggi sui giornali. Il titolo di apertura del Corriere della Sera, come detto, è "Così spiavano l'inchiesta". Nuovi atti giudiziari depositati dai magistrati di Perugia rivelano che gli indagati nell'inchiesta sugli appalti dei grandi eventi potevano contare su appoggi della Guardia di Finanza nei servizi e così veniva informati sulle indagini. Però io nella vagonata di intercettazioni ve ne segnalo due che faranno certamente discutere. Una che è apparsa, vale a dire Balducci, uno degli indagati, parla tra gli altri con il direttore del TG1 Minzolini, perché ci sarebbe stata un'intervista al figlio di Balducci fatta da Vincenzo Mollica, colui che cura gli spettacoli, perché il figlio di Balducci faceva parte di un film, Io Don Giovanni, e poi Minzolini chiama Balducci e gli dice: hai visto allora il servizio? È stato proprio bello, guarda, il servizio è venuto benissimo, non ho parole, ma che volevo solo sapere se ti è piaciuto. Lui è contento, immagino, il figlio, molto molto, guarda, grazie. E Minzolini: meno male, lì è una specie di investitura, sai, no, in quel mondo lì. Io, dice Balducci, ti avrei ovviamente chiamato stasera, non ti volevo. Ma che scherzi, gli dice Minzolini, non ti preoccupare, volevo sapere, così sono contento, ci vediamo presto, quanto ti pare. Insomma, un servizio che sarebbe stato fatto per accontentare il figlio di Balducci, che faceva parte di questo film. Ma Minzolini dice: era una mia fonte in Vaticano, Balducci, l'ho conosciuto, andavo a cena, che problema c'è? Io forse gli dico anche tesoro al telefono, ma faccio così un po' con tutti. Mi ha chiesto dei favori, ma io dico sì a tutti, poi faccio di testa mia. Insomma, certo, questo creerà polemica. Devo dire che creerà sicuramente più polemica, e soprattutto è un filone nuovo delle indagini davvero sconcertante. Se confermato, lo leggiamo su Repubblica, ma anche sulla Stampa e anche su Libero. La Stampa lo titola così: Balducci, spuntano i rapporti col racket della prostituzione. I carabinieri, così si procurava gli uomini. Addirittura su Repubblica: su Balducci, l'ombra della prostituzione gay. È Carlo Bonini che ne scrive, con Balducci che, secondo gli inquirenti, voleva incontri occasionali di tipo sessuali, rivolgendosi per questo a due soggetti che si ritiene possano far parte di una rete organizzata, soprattutto nella capitale, di sfruttatori o favoreggiatori della prostituzione maschile. Tra questi un nigeriano, indicato all'anagrafe come religioso, come corista in Vaticano. E dice Bonini: in realtà in queste telefonate si trasforma in una coazione a ripetere di appuntamenti che svelano una rete di prostituzione maschile di potenziale ricatto. Ci sono intercettazioni, pare anche esplicite, sui dettagli: questo è alto 2 metri, 97 kg, 33 anni, completamente attivo, ho una situazione a Napoli, ho una situazione di Cuba, ho un tedesco arrivato dalla Germania, ho 2 neri, ho il calciatore, ho uno dell'Abruzzo, ho il ballerino Rai. Insomma, davvero si apre un fronte incredibile, tanto che Libero in prima pagina titola "I giudici Guardoni e la cricca gay". Intercettati pure i dialoghi hard di Balducci. Insomma, si sta aprendo questo nuovo filone: giudici Guardoni negli atti pure gli incontri gay, i magistrati spiavano gli appuntamenti homosex di Balducci. Io mi chiedo, tutto questo, insomma, già spiattellato sui giornali, e va bene così. Trovate molto sugli OGM. Trovate molto sugli OGM, come avete sentito la nostra apertura di Radio 24. Noi siamo in rapida chiusura. Bruxelles sdogana le colture OGM, ok alla patata transgenica BASF per l'industria, leggo dal Sole 24 Ore, dove si scopre che in Italia sono congelati 250 progetti da 11 anni, cioè da quando vige questo bando, insomma, a livello europeo per le colture OGM. ovunque sui giornali ci sono i favorevoli, i contrari, segnalo solo il ministro Zaia sul giornale che dice questa patata non entrerà mai e poi mai nel nostro paese, almeno fino a quando sarò io ministro. Ci opporremo con ogni mezzo contro questa decisione. Quello che è successo a Bruxelles è un fatto grave e inaccettabile. Sono indignato e preoccupato. Su Repubblica invece Carlo Petrini anche dice assolutamente no, ci sono invece i favorevoli, insomma è il solito dibattito, OGM sì, OGM no. Sono alle segnalazioni conclusive, vi segnalo, come abbiamo sentito anche in GR, trova spazio solo sul Messaggero per la Verità, pagina 12, massacro di Novi, Omar torna libero. Omar Favaro, il giovane che il 21 febbraio 2001 insieme alla fidanzatina Erika uccise la madre e il fratello di quest'ultima, Susi Cassini e Gianluca De Nardo, con decine di coltellate, il magistrato di sorveglianza ha concesso gli ultimi 45 giorni di libertà anticipata, doveva uscire il 17 aprile, invece tornerà libero oggi, la pena per lui è finita. Dice di avere dimenticato Erika, oggi mi è indifferente, non mi interessa, capitolo chiuso, non le porto rancore. In questi ultimi mesi ha avuto la semilibertà, ogni giorno andava alle 12.30 a pranzo a casa con il papà che gli è stato e la mamma gli sono stati sempre vicini. Anche il papà di Erika, scrive il Messaggero, è stato sempre vicino alla figlia nel carcere ora di Verziano in provincia di Brescia. Nel 2006 riflettori accesi su di lei quando ha partecipato con le compagne di detenzione a una partita di pallavolo all'oratorio. E poi nel 2009 si è laureata in lettere con 110 elode il giorno in cui ha discusso la tesi con un argomento Socrate e la ricerca della verità negli scritti platonici. Anche quel giorno il padre era al suo fianco. Libero dunque da oggi Omar Favaro e credo a breve, insomma, ha preso qualcosa di più come pena, ma insomma tra qualche mese o qualche anno anche Erika avrà finito di scontare la pena.